Cognacci! La la la la la la la la! Ma cognacci! Ah! Grazie, può fumare ma cognacci! Mi dà meditazione profonda! Amo stare ma cognacci! Meditazione profonda muciata! Muciata, salto na te dreadlock. Muciata, in ma dreadlock. Amore, branco, fumare. Maconhate, de colore, cultivare. Amo, fumare, maconhate. E men avanti, em tutto il mundo. E men fumato, muito diverse. Tipo de herbe, de tutto de herbe. Che mi gusto fumare. Maconhate, della erba uno, mi piace, mi creare, Jamaica, maconhate, meditazione, maconhate profonda, amo stare maconhate, fumare la maconhate, tritata, credito troppo, aricole maconhate, amo fumare maconhate, maconhate, la la. Meditazione profonda, maconhate, maconhate, maconhate. Io medito, men avanti, suomini, la vita. Maconhate allupato, maconhate ammucchiato. El padulo maconhate, el madulo meditante. El maconhate va a fanculo zoccola. Socola! Oh, oh, oh, oh, oh, maconhate! La erba uno mi piace, il migliore, il profondo.